L'Argentina non si vende è un libro che è nato grazie a Riccardo di Prospero Editore. Ha saputo che stavo partendo per l'Argentina portando un viaggio di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e mi ha detto: perché non fai un libro di viaggio? Io non so dire di no, soprattutto quando mi dicono di fare un libro. Allora gli ho detto sì, certo. Poi mi sono reso conto che un libro di viaggio non sapevo farlo, ma in viaggio c'era con me Piero Maderna. Piero Maderna è un ingegnere che però ha lo strippo per scrivere e raccontare i viaggi che fa. Ha un blog, ma con si chiama, dove racconta molto bene i viaggi che fa. Allora ho letto un paio di cose e ho detto: senti Piero, ma non avresti voglia di scrivere un libro con me? Com'è? Davvero? E io faccio sì, certo. Allora ho pensato di unire le forze. Quindi dentro all'Argentina non si vende c'è una parte diaristica che ha curato Piero e poi c'è una parte mia che in cui c'è introduzione, conclusione, introduzione dei vari capitoli che poi passano la palla a Piero nel suo pezzo di racconto e poi io ci ho aggiunto anche delle interviste a persone che abbiamo incontrato, dei miei articoli di giornale in quei giorni di quel periodo per correlare il diario di viaggio. Di fatto l'Argentina non si vende, diventa così un libro multiformato dove si mescolano diversi stili narrativi, quattro mani, quattro occhi, due cuori e quindi una visione più ampia insomma possibile del paese senza tentativo di omogenizzare, senza cercare di fare un lavoro per dire alla Wuming, no? Dove la scrittura è comune, no, nel riconoscimento delle differenze, dell'articolazione della differenza come anche elemento positivo, ma riconosciuto come elemento positivo e quindi valorizzante una visione più ampia dell'oggetto Argentina nel rispetto ovviamente di parametri comuni, no? Eravamo in un viaggio per raccontare l'8 marzo, per vedere come e perché Milei era arrivato al potere con una visione, diciamo, anticoloniale, anticapitalista, tentativo di avere una visione anticoloniale, visto che noi come uomini bianchi, cis, eterosessuali, sia io che Piero, abbiamo una visione culturale, molto un'impronta culturale importante, da cui proviamo a liberarci, ma non siamo ancora liberati, non siamo in grado di liberarci. Insomma, nell'Argentina non si vende, c'è un po' dentro tutto questo. E quindi per chi è pensato, a chi è rivolto il libro? È un libro per chi ama i viaggi, è un libro per chi vuole scoprire mondi diversi, è un libro per chi conosce l'Argentina ma non la conosce così a fondo, è un libro per chi ha delle domande su come e perché abbia potuto vincere Milei le elezioni, è un libro per chi vuole provare a capire perché Milei ha vinto le elezioni, ma anche che cosa vuol dire Milei. È un libro per chi ama la politica, ama comprendere cosa succede nel mondo. L'Argentina non si vende è un libro che può accontentare sia i conoscitori dell'Argentina sia chi l'Argentina non la conosce, che può interessare a chi segue le destre radicali e chi non le segue. È un libro però che ha un tipo di scrittura, quella del diario di viaggio e dell'intervista, che rende il libro facilmente leggibile. Non serve conoscere a fondo l'Argentina per entrare e capire le cose che vengono raccontate e soprattutto è scritto con un lessico che permette di entrare immediatamente all'interno del tema e dell'argomento, ovvero l'Argentina che resiste, i movimenti sociali, le sue storie profonde come la storia Mapuche, come la grandezza del movimento femminista. L'Argentina non si vende è quindi un libro, una narrazione immediata che però può aiutare a capire anche i processi argentini così come quelli che possono in alcuni casi essere simili italiani o statunitensi. Insomma, è un libro per tante e tanti, non per tutte e tutti, perché ha una specifica passione. Sarebbe anche molto bello essere invitati da qualche parte a Bologna a presentarlo. Quindi, L'Argentina non si vende, di Andrea Cegna e Piero Maderna, edito per Prospero Editore. Compratelo, leggetelo, commentatelo.